e tanta tristezza intorno a me. Ma la sera poi ti porterà come stasera accanto a me. Non parlare, abbracciami e vedrai che la mia tristezza finirà. E se mi crederai, il tempo fermerò eternamente con...